Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte seconda, lezione 18. Prima dell'inizio della lezione di Zohar c'è poco tempo per gli annunci, eccetera. Questa sera voglio discutere delle molte opportunità che hai. Solo breve, ma che saprai cosa è possibile. Il modo in cui mi è venuta l'idea non è importante. Succede di notte, quando non riesco a dormire, e poi vedo chiaramente. Significa che ciò che ricevo non è mio. A me viene mostrata l'intera immagine, ma non è mia. È stato affidato a me il compito di risolverlo. Il punto è che c'è continuità nel nostro lavoro. Quando impari la Kabbalah, devi essere preparato, o almeno avere il desiderio che dopo si vuole insegnare agli altri. Il modo non importa, anche se vuoi farlo in un altro modo. La tua integrità, le tue correzioni, dipendono dal grado in cui dopo, o anche ora, stai cercando di trasmettere agli altri in qualche modo. Anche questo è un modo di dare, altrimenti è solo per te stesso. Ho lavorato a lungo per mettere insieme un buon programma. Su questo sito web www.kabbala-arizal.nl/english puoi trovare le traduzioni del corso di base della Kabbalah e c'è anche l'inizio delle nostre lezioni di Zohar. Mi fermo con il dare lezioni per i principianti. Quello che faccio è andare sempre più a fondo e lasciare andare la ripetizione. Quello non è il mio compito. Se senti di essere capace e pronto a insegnare, sentiti libero di insegnare, ad esempio, il corso base o il corso introduttivo. Voglio continuare con quello che sto facendo e andare sempre più in profondità. Quando lascio e so che non puoi andare in pensione nella Kabbalah, ma arriva un momento che io dovrò lasciare e il mio desiderio è di lasciarmi dietro il più grande pacchetto possibile di Kabbalah, così le persone possono lavorarci e ogni cosa che è importante rimane. Non era mia intenzione insegnare, ma ho dovuto farlo. Così deve essere anche con te. Se inizi a insegnare, sai che sarà nel momento giusto e nel posto giusto. Hai solo bisogno del sentimento «devo farlo». Deve esserci il sentimento «devo fare questo», che non puoi più ignorarlo. Mi è stato detto «apri la Kabbalah, inizia a insegnare». Così è. Inizia in modo semplice e non guardare a 10 passi avanti. Confida che ti sarà rivelato. Nel nostro studio non ci sono esami. Non c'è motivo di fare esami considerando lo spirituale. Qual è l'uso di domande a scelta multipla e certamente se non avete idea di cosa si tratta? Il nostro studio non riguarda la conoscenza intellettuale e ovviamente dopo un po' tu sai chi è Zeyrampin e chi è Nukva. Ti ricorderai, ma questo non ha nulla a che fare con lo spirituale. È impossibile fare prove riguardo lo spirituale. Posso vedere come funziona dentro di te. Posso vedere se sei capace di creare collegamenti, se le tue risposte e domande provengono dall'intelletto o dall'interno, lo saprò. L'importante è che tu abbia il desiderio, che fai degli sforzi e inizi a vivere. Più tardi potrai insegnare nel tuo quartiere o anche al lavoro. Ad esempio, se fai un lavoro di cura, puoi insegnare ai tuoi colleghi o pazienti. Anche se lavori in un ospedale psichiatrico, perché devi sapere che le anime di quei pazienti non sono malate. Sarebbe meraviglioso se ci fosse qualche insegnamento nelle carceri. Non pensare, ma sono criminali. Sappi che impareranno più velocemente di quelli che sono cresciuti nella dottrina tradizionale. La Kabbalah è per tutti. Non è necessario essere un santo per imparare la Kabbalah. Imparando la Kabbalah uno diventa santo. Domanda: è possibile che uno faccia cattivo uso della Kabbalah in questo tempo? Sappi che quando una persona non ha la giusta intenzione, la giusta Kavanah, non può fare nulla con la Kabbalah. Può parlare di Kabbalah, ma non ha nulla a che fare con la Kabbalah. Solo quando c'è la giusta Kavanah, la Kabbalah si apre. È possibile ricevere dalla Kabbalah se non c'è la giusta Kavanah? La giusta Kavanah, la giusta intenzione. Provo a spiegarlo. Supponiamo che tu possa vedere la vera intenzione spirituale interiore come una radiografia. Vedresti che tutti i vettori sono diretti da un lato. Si alzavano e tutti si dirigevano da un lato, proprio come il ferro verso un magnete. Per mezzo della tua intenzione, tutta la tua forza sarà diretta in un modo. Quando l'intenzione non è presente, non si può attrarre, e proprio come con un magnete sarà positivo e positivo. Non c'è modo di abusare dello spirituale, ma ai primi tempi dello Zohar e ai tempi di Ari era proibito insegnare la Kabbalah. Solo dopo Ari, così intorno al 1570, fu nuovamente concesso. Questo non è il momento e il posto giusto per approfondire questo argomento, ma potrebbe essere più tardi. Imparerai com'è. Ricorda che nessuno può abusare della Kabbalah. Naturalmente ci sono molte istituzioni che lo usano per il materiale, ma è un uso improprio. Le persone inciamperanno, ma per questo diventeranno adulti, quindi anche questo è buono. Quello che fanno è sfruttare la Kabbalah, perché vogliono guadagnare soldi, ma non abusano della Kabbalah, non possono, perché la giusta Kavanah non c'è. E d'altra parte conoscono la legge che si deve dare un decimo per l'apprendimento del Creatore. Ma anche così non è per noi. Questo è necessario anche perché ora si ha l'opportunità di dare. Quindi la risposta alla domanda è: nessuno può abusare della Kabbalah in questo tempo. Dovresti andare avanti. Hai sempre più bisogno di dare, se solo piccole quantità. Chiedo gentilmente, non che sto suggerendo il contrario. Ci sono istituzioni che vi stanno telefonando, ma io non ti telefonerò mai, né per soldi né per altre cose. Se dovessi farlo, tutti i cancelli si chiuderebbero. Stiamo facendo così tante cose diverse. C'è ad esempio l'apprendimento della lingua ebraica, non la lingua come viene usata in Israele, ma la lingua ebraica cabalistica. Per noi il valore numerico è molto importante. Sul sito web è possibile trovare un dizionario. E mentre stai imparando lo Zohar, imparerai anche un po' della lingua aramaica. La scelta è enorme e dipende da te quanto lavoro fai. Devi salire sulla scala spirituale. Nessuno ha nulla da dimostrare, ma supponiamo che ci sia qualcuno che dice: «E chi è Portnar?» Direi: «Vieni da me e poi vedremo a chi parla lo Zohar». Non chi comprende lo Zohar, ma a chi parla lo Zohar. Ovviamente ci sono grandi cabalisti che possono dare molto di più, ma quello non è il mio compito. Il mio compito è farlo in questo modo. Sono stato invitato a parlare in una conferenza, ma mi sono rifiutato. Parlo solo ai miei studenti. Guarda quanto tempo hai impiegato per essere ricettivo. All'inizio c'era così tanta resistenza. Si cercava di capire intellettuale, con la testa. C'è solo una scienza spirituale e tutto il resto riguarda lo spirituale. Vai in una biblioteca dove puoi trovare così tanti libri, ma tutti parlano solo dello spirituale. Tutti gli gnostici parlano dello spirituale, ma il risultato è zero. Con tutto il rispetto, ma dico com'è. Naturalmente so che questo farà male, ma ricorda che non elogio uno e dico a un altro che è inferiore. Non pensare che sia male. Tutto è necessario. Vedili come gusci e i gusci sono anche necessari. L'unico modo per progredire nella Kabbalah è quando ti rendi piccolo, anche più piccolo degli altri. Non importa se sei un maschio o una femmina, né quale religione hai. Durante il tempo molto è tradotto in modo da poter leggere molto. Tutto è necessario, tutto è collegato. Più argomenti leggi, più in profondità puoi andare. E vedrai che ogni cosa si completa l'una con l'altra. Non tutto è tradotto. Da un lato c'è un sacco di tempo e dall'altro non ho il permesso per tradurre tutto. Come mai? È importante che trovi dentro te i minerali spirituali. Devi cercare i minerali divini e portarli in superficie. E proprio come con l'oro o il diamante, la parte delicata deve essere visibile e i rifiuti dovrebbero rimanere sotto. leggendo Sefer Yetzirah, puoi tirar su i minerali divini e portarli in superficie. Appariranno nuovi punti di forza e quando è in superficie può irradiarsi. La luce può brillare su di essa e può diventare oro brillante, eccetera. Solo dal modo di leggere questo libro puoi arrivare alla realizzazione assoluta. Ma ovviamente c'è una cosa necessaria: la tua kavanà, il tuo desiderio. Puoi leggere e chiedere, ma senza la tua kavanà, il tuo desiderio, non accadrà nulla. Il Sefer Yetzirah è il più alto, e se la kavanà è lì, se il desiderio è lì, forse da sopra te lo riveleranno. Ma comunque troverai il Sefer Yetzirah elaborato nel libro Zohar. Ci sono quattro fasi nella Kabbalah e tutte e quattro appartengono alle caratteristiche del Creatore. È tuo compito portarti in accordo con queste caratteristiche. Malchut è da confrontare con il colore nero e significa che c'è un po' di ricevimento, ma non è realmente una parte delle qualità spirituali. Zeirampin è da confrontare con il colore verde. Zeirampin ha 6 sfirot. Binah è da confrontare con il colore rosso. Puoi salire a questo livello. Binah o Ima, questa è una sfirà. Binah è la madre, o in altre parole, la Binah de Binah. Il padre, Abba, è il Chochmah della Binah, e Abba è il colore giallo. Questo è il livello più alto, vale a dire durante i 6.000 anni di correzioni. Questa è la padronanza di cui parlo. Lo scopo del nostro studio è essere padroni di noi stessi. Questo dovresti sempre averlo in mente. Allora è solo un piccolo passo per diventare un maestro nella Kabbalah luriana. Ogni cosa che impari è per questo, padrone di te stesso. Quando arriva il Messia, ci sono ancora sfirot da raggiungere, ovvero Chochmah e Keter. Con questo intendo il Chochmah de Chochmah e non il Chochmah di Binah. Fino all'arrivo del Messia, questo non è possibile. Il colore che appartiene a questo livello è il colore bianco e può essere dato solo da lui. Questo è il momento in cui hai raggiunto la padronanza. Ma il più importante di questo studio è stato, è e sarà sempre uno studio spirituale, ed è continuare a lavorare indipendentemente. Io do solo una direzione. Si tratta solo dei tuoi progressi, della tua realizzazione, quindi è molto importante per sviluppare il desiderio di trasmettere, perché questo è l'unico modo per la progressione. Sull'esterno lavori per essere un insegnante e dall'interno lavori per essere un maestro. Mai e ripeto mai imponendo la tua volontà a un altro. Questa è la forza che devi costruire, perché se sei diventato un insegnante, sappi che il tuo stesso amore crescerà e crescerà. Quindi devi essere estremamente vigile nel non usare il tuo amore per te stesso. Ci sono insegnanti e rabbini che si comporteranno come se fosse proprio di loro. Vedono solo la Kabbalah come un indumento per vestirsi, e questo è sbagliato. Metti questo nel profondo del tuo cuore. Più piccolo riesci a farti considerando gli altri, più diventi padrone e più puoi dare la Kabbalah. Non importa se sei un rabbino o un insegnante, la tua posizione deve essere la più bassa. Non importa chi o cosa sono i tuoi studenti. Può essere uno scienziato o un netturbino. Tu sei il più basso che puoi dare e ricevere. Questo è un segreto profondo. Non ha nulla a che fare con nessuna religione. È una legge spirituale essere modesto, perché non c'è altro modo. Lui ci parla dei numeri in cui vengono visualizzate le forze. Pagina 6, colonna prima, frase 24. Ed è per quello che c'è la domanda, perché non sono stati considerati come 5 sfirot a ogni sfira di Kahab, Keter, Kochmah, Binah, perché non li contiamo con il numero degli sfirot generale, ma solo con Tiferet. Ed è per quello che c'è la domanda, perché non sono stati considerati come 5. Tiferet ha 5 sfirot. Perché diciamo solo Keter e solo Binah e solo Kochmah, mentre essi hanno 5 in se stessi? Qual è la ragione di contare con Tiferet, Zeirampin, 6 proprie sfirot e fanno 10? Perché questo non accade con Keter, perché lui ha anche quei 5? Quella è la domanda che pone. Ad ogni propria sfirà di Kahab, Keter, Kochmah, Binah, come facciamo con Tiferet o Zeirampin? Perché non li contiamo con il numero degli sfirot generale. Gli sfirot generali sono 10 e Keter deve essere visto come una sfirà, Kochmah come una sfirà, Binah come una sfirà, Tiferet come 6 e Malkut è la decima, ma solo con Tiferet. La domanda che lui pone è perché contiamo solo in Tiferet 6 sfirot e li aggiungiamo al numero 10. Questa è una domanda molto importante. Questo succede solo in Tiferet. Solo in Tiferet il numero 6 è aggiunto, così diventa 10. Non importa di quale sfirà o grado parliamo, ci sono sempre 10 sfirot. Keter, Kochmah, Binah, 3, più Zeirampin o Tiferet, 6, e Malkut, 1, insieme 10. Non renderlo più difficile per te. Allora lo è. Ci vuole tempo per farlo entrare. Essere sicuri, avere la fiducia che un giorno avrai il sentimento, perché quei 10 sfirot sono dentro di te. Gradualmente noterai che non è all'esterno, ma dentro di te. Di sempre di più. questo libro parla di me. Cosa accadrà? Il libro ti parlerà. Questo libro rappresenta l'intero regno delle forze che sono dentro di te. Il fatto è che non le usi. La maggior parte dei punti di forza sono addormentati e questo è un peccato. Ora lasciatemi essere chiaro. Alcune persone pensano che parlo sdegnosamente della religione, ma non parlo mai sdegnosamente di religione, gruppi o persone. Ognuno ha le proprie radici individuali e il proprio ruolo personale, e per questo ho rispetto. Dall'interno devi avere rispetto. Non sto parlando di rispetto culturale che non conta, ma provo a vederlo in questo modo. Quando una persona non fa uso dei suoi punti di forza creativi, qual è la sua vita? Dall'esterno può risplendere, ma dall'interno è morto. Prendi il mondo degli affari. Dall'interno sono tutti morti. Lo stesso con la religione e con tutti gli altri gruppi. Finché non fanno uso dei punti di forza nascosti al loro interno, è senza speranza. Certamente una persona religiosa fa uso dei suoi kelim di dare, ma ciò che è inferiore non ne fa uso ed è qui che sono i punti di forza creativi. Hai solo bisogno di sapere come utilizzare questi punti di forza creativi, perché richiede un atteggiamento molto speciale, altrimenti li distruggi. Qui nello Zohar imparerai molto su questi punti di forza creativi. Ogni giorno mi stupisco di ciò che leggo nello Zohar. Ad esempio sui punti di forza di Bilam, il re della magia, la controparte di Mosè. Mosè attirava i punti di forza da sopra, da Zerampin e Malkut, che sono punti di forza divini. Ma Bilam, che era un grande leader, attirò le forze del serpente. Gradualmente imparerai cos'è il serpente. Ti ho già detto che il serpente è la mente terrena dell'uomo, ma da dove viene? Non c'era nessuno che poteva rispondere alla mia domanda, ma qui nello Zohar, lo Zohar ha aperto i miei occhi. C'è un serpente superiore. Il serpente che è venuto a Havah, Eva. Il serpente si avvicinò a Havah e la infettò. Come? La religione, la mia religione e altri hanno dato solo risposte infantili. Da dove viene il serpente? Tu sai che ogni cosa è stata creata dal creatore. Quindi come si inserisce il serpente nella storia? Sai già che c'è il regno terreno, le sfere terrene e sopra il cosmo, il quale è una forma di materia delicata come un'estensione della terra. Sai anche che sopra questo ci sono i mondi spirituali. Intorno alla terra e al cosmo ci sono i mondi spirituali che iniziano con Malkut de Malkut, del mondo Asiya, e da Asiya a Yetzirah, Bria e Azilut. Più vai avanti, più sottile diventa, significa sempre più per il bene. questo lo sai. Ti ho anche detto che Asia è 90% malvagio e 10% buono. Yetzirah è 50-50. Bria è 90 buono e 10% malvagio. Quello è il significato della luce che diventa sempre più sottile. C'è sempre meno spazio per la severità, ma è ancora lì. L'ultimo mondo è Azilut, dove entrambi sono in armonia. Quindi dov'è la forza del serpente? Siamo tutti connessi con il serpente anche quando sta imparando la Kabbalah, solo che il serpente dorme quando sei impegnato con la lettura. Nessuno può liberarsi completamente dal serpente. Com'è possibile questo? Ecco un segreto profondo. Apri il tuo cuore e renditi ricettivo e lascia andare l'intera lotta. Sai già che c'è stata prima la rottura dei Kelim. Questo è chiamato il mondo di Nekudim, e dopo il mondo di Nekudim è venuto il mondo Azilut. Dopo la rottura dei Kelim, che significava che l'anima di Adam fu spezzata, scintille di luce vennero di sotto e caddero sotto la Malkut del Malkut, sotto la Malkut de Malkut del mondo Asiyah. Detto semplicemente, c'è una barriera al confine tra i mondi spirituali e il cosmo, e ci sono le forze impure chiamate Klipot. Naturalmente nulla è impuro, ma, per così dire, il risultato di questo è la severità, ma è successo solo quando i legami sono stati spezzati con lo spirituale. Quindi in questo, vedi, c'è una zona tra il cosmo e i mondi spirituali. In questa zona c'è una fusione, uno spazio ruvido dove sorge la severità. L'alto serpente è lì. Prova a capire questo. Dove finisce il cosmo, dove è il confine, a entrambi un po' di questo e un po' di quello. Hai la stessa pesantezza e le scintille di luce delle relazioni spirituali rotte. Qui in questa zona c'è l'alto serpente. La forza più alta del serpente proviene da questa zona. Qui è tutta magia e misticismo. Non appartiene alla luce stessa, ma è una fusione. O in altre parole, questo è il luogo dove la luce è abusata. La radice di tutto il male viene da questo luogo al nostro mondo. Tutte le esperienze del male si trovano nascoste qui. Ti ho anche detto, ciò che è superiore ha anche un inferiore. C'è sempre una connessione tra il superiore e l'inferiore. Qual è la prossima stazione di quel serpente nel cosmo? Semplice, leggi e metti da parte la tua resistenza. Ti racconto solo la mia storia. Tra due paesi c'è una barriera e un confine, e c'è una zona che è chiamata zona neutrale. Lo stesso tra il cosmo e il nostro mondo. C'è anche una zona neutrale. I mondi superiori e noi sono creati e il nostro compito è di portarci in linea con il superiore. Nel cosmo c'è una stazione e qui in questa stazione il serpente è diventato più ruvido e da questo punto ci influenza. La manifestazione inferiore del serpente è la Via Lattea. La Via Lattea di cui parlo è un ammasso di forze nel cosmo ed è lo stesso posto in cui tutte le stelle sono appese considerando i loro punti di forza. Tutti i maghi, gli stregoni, eccetera, attingono le loro forze da questa Via Lattea. C'è una varietà infinita di uso improprio delle forze provenienti da questa Via Lattea. C'è la stazione del serpente superiore e c'è la stazione inferiore, la Via Lattea. Ed in entrambi i luoghi il mago e i cartomanti, eccetera, ne fanno uso. Zoar ti parla di entrambi i punti di forza, non di usarli, ma che tu li riconosca entrambi i punti di forza dentro te, perché se non li riconosci in te stesso e dici che lavori solo per il creatore, tutti i punti di forza provengono dal creatore. Anche la Via Lattea viene dal creatore, lo sai. L'alto serpente è creato dal creatore. È una specie di ministro della giustizia. Entrambi sono necessari, altrimenti come puoi crescere? Non voglio essere un angelo perché un angelo non si muove in avanti. Leggi attentamente. Se non ci fosse nessuno che ruba, come potresti sapere cosa è male o sbagliato? Entrambi sono necessari. Ciò che vedi in questo mondo è solo una proiezione di questi due punti di forza. Che cosa ha fatto Havah Eva? Qual era il problema tra Adam e Havah? Come hanno potuto peccare? All'inizio della loro esistenza non hanno avuto problemi. Erano senza colpa o vergogna quando hanno fatto l'amore. Erano nudi e non sentivano vergogna. Cosa li ha portati a peccare? Ricorda che c'è libera scelta. Sei tu che decidi da dove la luce proviene, da dove provengono le forze. Puoi attirare la forza proveniente dai mondi spirituali, il quale sono più superiori del serpente, o tu attiri dal serpente stesso. Sei tu che effettui la decisione. Havah era così devota, con la sua esperienza spirituale entrò nella regione del serpente. Durante la sua preghiera ha attirato le forze impure del serpente della Via Lattea e da questa forza ha ricevuto tutte le forze impure dentro di lei, nei suoi pensieri. È stata in qualche modo la prima strega, era la causa di ogni cosa. Ora leggi attentamente e ricorda. Non parlo mai sdegnosamente della religione, dei gruppi o delle persone. Non dico che le donne sono, parlo solo dei punti di forza. Havah ha attirato questa luce per lei. Havah ha attirato questa luce per lei. Era la forza del serpente che ha inciso in lei le condizioni impure e lei ha condiviso questo con Adam. Così anche lui si è infettato. Lui doveva essere forte, ma non poteva. Ecco un segreto profondo. Anche gli uomini peccarono, ma Havah era la causa. Fu Havah che portò morte e distruzione. Il tempo delle fiabe è finito. Devi leggerlo questo come una persona adulta, senza incolpare. Tutti abbiamo peccato. La ragione per cui ne parlo con te di questo è che è giunto il tempo della correzione. Le donne hanno bisogno delle loro correzioni e gli uomini hanno bisogno delle loro correzioni. Ma in questo capisci perché così tante donne si tengono occupate con la magia? È una forza femminile e Hava è stata la prima ad attrarre questa forza. E ovviamente c'è un rimedio, una correzione. Perché Hava è stata la prima, quindi qui anche i suoi figli Caino e Abele sono stati infettati. Anche loro erano portatori delle forze impure. Tutto questo proviene dal libro Zohar. Forse sono un pochino avanti, ma Bilam era un grande saggio e il re che regnava allora lo chiamò a maledire il popolo di Israele. Perché? Videro che questa nazione era così divina, mentre essi erano soggetti a distruzioni. Quindi il re assunse Bilam per maledire la nazione di Israele. Bilam era un uomo forte, un uomo con grande potere, e tuttavia non poteva minare la forza divina di Israele. Non poteva né voleva attraversare la zona neutra tra il cosmo e i mondi spirituali. Non poteva raggiungere i mondi spirituali dove sono le radici dei figli di Israele. Cosa fece? Mentre stai imparando Zohar, impari anche come funzionano le forze opposte. Se stai imparando lo Zohar, attiri punti di forza di Zerampin e Malkut, ma hai bisogno di penetrare i punti di forza della Via Lattea. La Via Lattea ha influenza su di noi 24 ore. Il serpente funziona 24 ore su 24 e ovviamente lo senti. Nel momento in cui vuoi riposare, il serpente ti prende. Il riposo, rilassamento, è veleno. Quando ti rilassi è come se ti dichiari morto. Lascia sempre che ci sia una luce, risveglio, così il serpente non può raggiungerti. Bilam fece uso della stessa formula che usano stregoni e maghi al giorno d'oggi. Quale sia la formula, tu la puoi imparare nello Zohar, solo che ci sarà un'enorme differenza. Non sarà possibile per te usarla. Durante il periodo in cui sto studiando Zohar, posso svegliare gli stessi punti di forza come Bilam, solo che lui voleva farne un uso improprio e io mi rifiuto di abusare di questi punti di forza. Imparo lo Zohar per salvarmi. Studio lo Zohar così i punti di forza di Chokmah e Binah possono aiutarmi. Bilam si collegò con tutte le forze impure della Via Lattea. Era un grande filosofo, poteva vedere dall'altra parte. La sua forza era enorme. Ma è necessario conoscere questo prima. le forze del serpente non possono essere usate senza preparazione. E cos'è la preparazione? Per prima cosa devi sporcarti. Sto solo parlando di forze. Significa sporcarti attraverso il tuo comportamento e macchiare te stesso, la tua lussuria, per renderti basso. Questo è il modo in cui le persone ricevono la loro magia. Prima devono macchiarsi. Bilam aveva un asino femmina e al mattino praticava un po' di magia. Fu invitato a esporre la sua magia, a esorcizzare guerre ed altre cose. Ed ebbe successo. Sapevano che lui poteva fare questo e lo hanno pagato. Fu invitato e pagato per distruggere un esercito. Pensi che questo non accada al giorno d'oggi? Svegliati, guarda ad esempio intorno a te. Vedi come le persone nella pubblicità manipolano gli altri. Guarda uno spot e dietro questo spot c'è un moderno Bilam. Stai attento. Durante la notte si sporcano. Cosa ha fatto Bilam fisico e spirituale? Dormiva con il suo asino femmina, proprio come un uomo dorme con sua moglie. Certo che non era fisico, ma attirava le forze a lui. Si sentiva come un asino considerando l'asina femmina. In questo modo attirò le forze del serpente. Lui attirò le cose più sporche, come una preparazione. Anche per l'asina femmina era sudicio. Sappi che gli uomini possono attrarre queste forze. Ma tutto ciò che ha fatto era una preparazione per quello che doveva venire. Ha continuato con il risveglio delle forze in se stesso. Al mattino presto sapeva come fare con il serpente perché il serpente ha le stesse forze. Ha preso un serpente velenoso. Un piccolo veleno può essere anche come una medicina, ma molto ti ucciderà. Prese il serpente e tagliò la testa. Tirò fuori la lingua come fanno gli incantatori di serpenti e lo mescolò con altre specie e lo bruciò come incenso. Bilam bruciò l'incenso proprio come fece Mosè, solo che Mosè si unì alle forze sante, raggiunse Zerampin e Nukva, in contrasto a Bilam che raggiunse l'alto serpente che si stabilì nel confine. La zona di confine è sempre un'area difficile. Questa è l'area in cui si trovano i trafficanti. Nell'area in cui è sistemato l'alto serpente, lì vanno i maghi e si entrano in contatto per mezzo dell'incenso, proprio come Bilam e altri distruttori hanno fatto. Non pensare che sia facile, è una procedura completa. Prima è necessario tagliare la testa in quattro e produrre un'alta forma di incenso che va direttamente all'alto serpente. Se senti la parola Via Lattea, non pensare che sia qualcosa di bello e interessante. È anche il posto dell'alto serpente e il mago porta l'incenso fino all'alto serpente. Perché ha bisogno di tagliare la testa in quattro? Ci sono quattro mondi nel divino e quattro mondi di forze impure. Significa che ci sono Malkut, Zerampin, Binah e anche Kokmah delle forze impure. Sai del santo nome e delle forze appartenenti al santo nome, ma il mago fa un uso improprio delle forze. Lui usa la testa, Keter, Kokmah e Binah, delle forze impure e le porta al superiore. In questo modo riceve la forza del serpente e può colpire e molestare gli altri. Non pensare a qualcuno che è vestito in modo strano, con un cappello a punta. In questo mondo sembrano più normali, vestiti con un abito proprio, come l'uomo nel management, nella pubblicità. Ma le forze del serpente sono nascoste qui. Sembra tutto innocente, non è lo stesso commerciale, ma ciò che è dietro lo spot, come viene stabilita la pubblicità, quali forze vengono utilizzate. Non puoi vederlo perché sono nascosti in edifici belli dove non è visibile il serpente, ma usano tutti i tipi di forze. Le donne sono una facile preda. Il re Salomone aveva molte donne. Era un uomo divino con una enorme forza spirituale, ma alla fine dei suoi giorni, quando era vecchio e la sua forza era sparita, anche lui era preda considerando la magia di sua moglie. Costruì un tempio per una delle sue donne egiziane e significa che era sicuramente smarrito dal suo sentiero. La magia di sua moglie e del mago lo sviò e alla fine dei suoi giorni le sue forze erano sparite. Quando impari la Kabbalah, uno dei maggiori vantaggi è che la forza non diminuisce mai. Più impari, più forte diventi nell'attirare la luce. All'inizio una donna non aveva dolore, partoriva senza dolore, ma a causa del peccato di Havah, lei è nel dolore e un uomo la governa. Quello non era un caso all'inizio. All'inizio uomo e donna erano uguali. Lui dava e lei riceveva. Lui era pulito e lei era pulita. Ma dopo il peccato, dopo il tempo in cui Havah attirò il serpente, l'uomo la governa. Come mai? Entrambi appartenevano allo spirituale. Ma ora il suo cammino è cosparso di sporcizia. Pertanto lei ha dolore ed è vietato a un uomo avere contatti sessuali con lei durante le mestruazioni. Tutto questo è scritto nello Zohar. Non pensare che sto inventando cose o che sto parlando di questo mondo. È puro spirituale. Ma ci sono prove in questo mondo. Quando una donna ha le mestruazioni è soggetta al serpente, quindi è scritto che un uomo deve stare lontano da sua moglie. Un ottimo consiglio. Non solo fisico, perché lei è instabile o a causa del sangue. Il problema risiede nelle forze spirituali che attira. E quindi può danneggiarlo. Havah ha attratto il serpente nel nostro mondo. C'è ancora la rappresentazione di questo potere. È la forza femminile di Gvura visibile anche nel nostro mondo. Non pensare che questo non è lo Zohar. Anche questo è Zohar. È bene sapere come funzionano i punti di forza e le forze, perché se sai come funzionano puoi prepararti. Se sai come funzionano le forze, non devi avere paura, ma puoi prepararti e proteggerti per le forze del serpente. E questo può essere fatto solo se sai come funziona il serpente. Shalom.